punto di Stefano Folli. Distratti come siamo dalla telenovela infinita del Senato, rischiamo di non percepire il rombo del temporale che si sta avvicinando. Eppure i dati sono impietosi e il Fondo Monetario ieri è stato chiaro. L'economia italiana continua a ristagnare, la ripresa è ancora molto lontana, le risorse per aiutarla non ci sono. Su questa realtà deprimente Renzi ha fatto una battuta infelice, alla quale non è giusto crocefiggerlo, ma che rivela una certa insicurezza di fondo. Ha detto che le percentuali del PIL, che siano lo 0,4, lo 0,8, l'1,5, non cambiano la vita quotidiana delle persone. Purtroppo la verità è un'altra. È la riforma del Senato, a cui si dedica tanta energia o per farla o per sabotarla, che non cambia nel breve termine la vita degli italiani. Proprio perché le vere riforme, quelle che anche in Europa si aspettano dall'Italia, sono più economiche che istituzionali, o meglio, quelle istituzionali sono benvenute purché abbiano effetti immediati sull'economia. Invece si rischia di perdere di vista questo nesso, mentre il temporale è sempre più vicino.